24 mattino. Merito al bullismo, a come trattiamo gli altri in generale, sostanzialmente io credo che quello che sta capitando è che i toni sono brutti, stanno peggiorando, non... a volte alcune cose le pensiamo, siamo fatti di carne, siamo umani, ma non le diciamo, non le dovremmo dire, invece qui vale tutto, è da un po' di tempo che vale tutto, in politica, sui giornali, nei media, la televisione, vale proprio tutto, per la strada. Essere in sovrappeso non è una scusante, è un aggravante, nel senso che esistono i dietologi da molti anni, da forse più di un secolo ormai, anzi di sicuro, e tutti quei genitori in sovrappeso che crescono i loro figli e li fanno diventare in sovrappeso dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza e prendere consapevolezza del fatto che non fa bene a loro come non fa bene ai loro figli. Oh, cari miei, non sono d'accordo né con l'uno né con l'altro, e parlavamo, siamo partiti stamattina alle 6.30, no, con questo discorso in Parlamento del parlamentare del Partito Democratico Filippo Sensi nel giorno del primo Via Libera alla legge sul bullismo, un discorso sul fat shaming, appunto, il subire, come dire, insulti, e non solo perché si è in sovrappeso, perché si è grassi, insomma, no? E Carmelo Lauricella, ce l'abbiamo quel passaggio che abbiamo fatto sentire prima, lo ripeschiamo, che così lo facciamo risentire agli ascoltatori, magari sono messi in ascolto solo ora, via. Sono stato per tutta la vita e sono, cito, un cicciabomba, cannoniere, un panzone, un trippone, una palla di lardo. Qualcuno mi chiamava Manzo, mio padre ci sformava. Un ragazzino una volta mi gridò: Sensi, mi fai senso? Lo ricordo come fosse adesso. Chiunque mi conosca, Presidente, mi scuso per il fatto personale, sa che sul mio peso scherzo, lo esorcizzo, ci sorrido, ma mi ci misuro ogni giorno, non come un'ossessione, ma come la mia dimensione, il mio spazio. E sento questo sguardo che pesa, che mi pesa, già, mi pesa. E non sono d'accordo con il primo ascoltatore perché, insomma, lo dice lo stesso Filippo Sensi, che è un uomo di più di 40 anni, e questo succedeva già quando era ragazzino lui, e quindi non è un portato di questi tempi. E sul secondo, beh, c'è una dimensione diversa di... se vogliamo, in certi casi di fragilità, in certi casi di questioni puramente fisiche che non hanno nulla a che fare con l'educazione alimentare o anche solo con la possibilità di accedere ad un dietologo e arrivare ad un dietologo. No, ci arriveremo anche in rassegna stampa, perché ci sono un paio di cose che vi voglio segnalare, però come sempre in questa parte alle 7.23 minuti iniziamo dalle prime pagine dei quotidiani, dai titoli principali, beh, molti dedicati ovviamente al coronavirus, italiani in quarantena, il titolo del Messaggero, Cina chiuso per virus, il titolo della Repubblica, la grande fuga dal virus cinese, aerei a terra e fabbriche ferme, è quello della Stampa, italiani in quarantena è anche il titolo del Corriere della Sera, gli italiani via dalla città infetta, quello della Nazione, non male avvenire, il titolo è Sindrome cinese. E ancora, un po' di chiarezza sul virus cinese, il titolo di Libero, gomme a terra è quello del Manifesto, su British Airways e Lufthansa che sospendono i voli per Pechino. Le altre aperture, il Fatto Quotidiano, il Senato ridà i vitalizi a 700 politici, la delibera dell'organo di giustizia interno che sta per annullare i tagli, addirittura restituire gli arretrati. In esclusiva sul Fatto. Il Giornale, inchiesta sul citofono, maresciallo nei guai per la soffiata, processo a Salvini, si decide il 12, ovviamente si parla della famosa citofonata di Salvini. Intesa PD 5 Stelle, case agli abusivi, è il titolo della Verità, di apertura. E il Sole 24 Ore presenta Italia divisa in due, dove c'è la TAV, il PIL cresce del 7-8% in più, e è un'analisi dell'Università Federico II di Napoli. Iniziamo come sempre però da qualcosa di un po' diverso, che non troviamo nelle parti centrali dei giornali, quelle dedicate ai grandi temi. E beh, visto che ci siamo, il primo tema è quello del bullismo. Cosa è successo? Che ieri appunto la Camera ha dato il primo via libera al DDL antibullismo, che prevede una serie di cose, nessun nuovo reato, arrivano comunque pene più severe, racconta Barbara Acquaviti a pagina 14 del Messaggero, al pari di quelle previste per lo stalking, un numero d'emergenza e un'app, e soprattutto si evidenzia lo stato di emarginazione nel quale finiscono per ritrovarsi le vittime. Quindi l'Aula della Camera l'ha approvato ieri in prima lettura con il sì della maggioranza. Tra le novità, ben riassunte in uno schema, l'affido in comunità nei casi estremi nei quali la famiglia non interviene a fronte di un minore denunciato per bullismo e appunto il giudice può arrivare ad affidare il ragazzo ad una comunità, ci sarà un telefono attivo 24 ore su 24 per chiedere aiuto a consigli, operatori ed esperti, e infine un ruolo più forte della scuola. I dirigenti diventeranno una sorta di sentinella, avranno l'obbligo di segnalare sia alle famiglie che ai servizi sociali la presenza di bulli nella scuola. E visto che siamo in tema di insulti, di maltrattamenti, beh, c'è questa storia che troviamo a pagina 18 del Quotidiano Nazionale, che ha a che fare in questo caso con il sessismo nei confronti di una ragazzina, il sessismo nei confronti di una ragazzina arbitro ad una partita di ragazzini. Siamo a Sava, in provincia di Taranto, lo racconta Nino Femiani. Nel corso della gara della scorsa domenica tra la compagine locale Sava Neos Academy e i ragazzi Sprint, squadra della città di Crispiano, quindi categoria di giovanissimi regionale, quindi fatevi un'idea, siamo tra i 12 e i 14 anni, e questo succede anche in questi, non sono stadi ovviamente, in questi campi sportivi quando si svolgono queste partite. Ad arbitrare c'è una ragazzina di 16 anni, una donna arbitro, che è stata vittima per tutti i 70 minuti, perché tanto durano le partite, di ingiurie sessiste e aggressioni verbali. Vai a cullare le bambole, sei una deficiente, vai a farti le unghie o la calza invece di arbitrare. Queste le cose che si sono sentite. Morale, il padre della ragazza, che anche lui è stato un arbitro, prende carta e penna virtualmente, nel senso che mette mano a Facebook e scrive con innanzitutto i complimenti a lei, perché è stata brava a restare con la testa nella partita nonostante tutto questo, e non oso immaginare, dice, cosa pensasse ascoltando queste offese. Spero che questa cosa arrivi agli organi di competenza federali e alle testate nazionali, non per una mera pubblicità, ma perché i cittadini di Sava e soprattutto il sindaco condannino questa inciviltà. Intervenuto su questo anche il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, come ha visto, lo diciamo al padre di questa ragazza, Antonio Abate Matteo, la cosa ci è arrivata ed è giusto che ci sia. Abbiamo parlato adesso, occupandoci di bullismo, di affido, no? Della possibilità estrema che è l'affido dei bulli alla comunità. Ebbene, sul tema dell'affido vogliamo ritornare, perché ancora una volta, a venire a pagina 10, ancora una volta Luciano Moia, che se ne sta occupando, ma mio personalissimo giudizio, con ottimo impegno, cosa fanno? Sono partiti dalla vicenda di Bibbiano, che tanto scalpore e clamore politico ha suscitato, e stanno invece conducendo una serie di inchieste, di analisi e riportando una serie di servizi sul sistema dell'affido, su come va riformato, su come va ripensato, e anche in questo caso sugli esempi virtuosi. E allora è un pezzo che ci parla dei ragazzi maggiorenni che hanno alle spalle, ormai maggiorenni, che hanno alle spalle esperienze positive in famiglie affidatarie o comunità. Noi rinati grazie all'affido, ma ora non lasciateci soli. Racconta Luciano Moia, il volto limpido e autentico dell'affido non è quello urlato nelle piazze della strumentalizzazione politica, e neppure quello denso di ambizioni ambiguità ideologiche e di interessi economici raccontato a senso unico da certi media. Al di là dei casi giudiziari che certo esistono, su cui bisogna andare fino in fondo per riscoprire la verità dell'affido, è fondamentale guardare in faccia i ragazzi che hanno vissuto questa esperienza. Oggi, diventati grandi, cosa pensano? Per 8 ragazzi su 10 l'affido è stato un'ancora di salvezza da situazioni altrimenti senza uscita e l'occasione per costruire legami importanti nell'87% dei casi. È quanto emerge dalla ricerca presentata ieri a Roma da Valerio Belotti dell'Università di Padova e Diletta Mauri dell'Università di Trento, che ha coinvolto quasi 400 care leaver, una fotografia che mostra come per questi giovani i percorsi in comunità residenziale in affido siano stati decisivi per nuove opportunità di vita nel 94% dei casi. E poi c'è anche raccolto una bella storia di Davide, un uomo ormai di 30 anni che dice tra le altre cose: ho abbattuto un muro, cioè quando sono andato via dalla mia famiglia e sono stato portato in un'altra famiglia in affido, ho abbattuto un muro e poi l'ho ricostruito. C'è questa vicenda che l'apertura del quotidiano La Verità, siamo a pagina 3, ha a che fare con quello che succede nella regione Lazio e ha a che fare con il tema delle occupazioni abusive delle case. Come si diceva e come vedevate, no? come vi dicevo, La Verità apre con questa intesa PD 5 Stelle, case agli abusivi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un provvedimento che sta arrivando e che ha varato nel Lazio dalla maggioranza guidata ovviamente dal Partito Democratico, il presidente, lo ricordiamo, anche il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ed è un emendamento che ha a che fare con le norme sulle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ossia le case popolari. Nel testo si legge in modo chiaro che la Regione si impegna a predisporre un bando pubblico a cui sono invitati a partecipare tutti gli occupanti senza titolo, quindi gli abusivi, e poi delega i comuni all'assegnazione. A loro è prevista una riserva del 10% sul totale degli alloggi. Con l'approvazione dell'emendamento, scrive Fabio Amendolara a pagina 3, quindi anche chi non ha permesso di soggiorno in regola, chi ha l'ISEE sballato, chi non ha un contratto di lavoro, perfino chi non ha residenza anagrafica, potrà entrare nelle graduatorie da regolare. Un giocone che non trova precedenti nella giurisprudenza italiana e che andrebbe a sottrarre unità abitative a chi è già in lista per l'assegnazione. Un 10% delle case popolari destinate agli occupanti abusivi. E questo è il racconto che troviamo sulla Verità. Restiamo nel Lazio, ci spostiamo a Roma, nello specifico, perché il Messaggero ci dedica un pezzo niente male. Insomma, tutti i nostri amici romani sanno perfettamente quali sono le difficoltà a spostarsi in quella città. E sta arrivando un provvedimento interessante, o meglio, una regola interessante per i ragazzi che vanno a scuola e che ha a che fare con il trasporto pubblico e con le giustificazioni per i ritardi. Ma prima ci prendiamo una pausa. Mattino. Dunque, molto rapidamente, dal Messaggero a pagina 13, eravamo rimasti in sospeso. Qua, questa beffa capitale, caos, metro e bus lenti, gli studenti saranno giustificati per i ritardi. Una lettera del presidente dell'associazione presidi, Rusconi. I dirigenti scolastici dicono, nella fattispecie il fatto riguarda una stazione della metro, la fermata Cornelia, che è chiusa da 31 giorni. E i presidi dicono: vi preghiamo, l'associazione presidi, vi preghiamo, cari dirigenti scolastici, di tenere in particolare considerazione le problematiche di traffico che ci sono. Quindi studenti quasi automaticamente giustificati per i ritardi. Veniamo alla parte centrale della nostra rassegna stampa, con un po' di temi. Ragazzi, vi risparmio tutto tutta la parte con il travaglio del Movimento 5 Stelle, i riassesti all'interno della maggioranza, cosa dobbiamo fare, chi candidiamo in Campania, le tensioni interne al centrodestra con Berlusconi che dice Matteo non può fare da solo perché siamo... Insomma, in una fase anche di decompressione, se ci permettete. Andiamo un po' sulle cose concrete. A partire dalla questione dell'immigrazione, della quale tra l'altro parleremo più avanti, e le vostre opinioni sono benvenute, naturalmente, come sempre, ne parleremo alle 8:30 con Maria Latella, con due questioni. La prima ci arriva da Avvenire, pagina 11 dell'unico giornale che riporta questa notizia, ed è una notizia che arriva dalla Grecia. L'annuncio, quello che viene definito un annuncio shock da parte del governo, l'ultimo muro è nel mare Egeo, il titolo. Cosa è successo? C'è una linea dura del governo conservatore del premier Kyriakos Mitsotakis, una barriera galleggiante di 2,7 chilometri nell'Egeo orientale per limitare gli arrivi dalla vicina costa turca. Secondo la pagina degli appalti dell'esecutivo, il Ministero della Difesa ha lanciato una gara appunto per la creazione della barriera, le cui offerte devono giungere entro 3 mesi. Lo sbarramento dovrebbe avere un'altezza complessiva di 110 centimetri, racconta Daniela Fassini a pagina 11 dell'Avvenire, ed ergersi 50 centimetri sul livello delle acque, essere dotato di galleggianti. Si legge nell'annuncio, il costo dell'opera si aggira intorno al mezzo milione di euro, inclusi 4 anni di manutenzione. La descrizione parla di un sistema costruito senza specifiche militari e caratteristiche specifiche per consentire l'attività di gestione della crisi dei rifugiati a partire da parte della Marina e delle agenzie delle Nazioni Unite. La Grecia pensa a un muro, l'Italia, apprendiamo dalla stampa, ma come sapete è un tema sul quale eravamo già entrati, l'Italia invece pensa ad una sanatoria. Perché? Perché ci sono centinaia di migliaia di migranti sul nostro territorio che sono irregolari ed effettivamente lavorano, e quindi la direzione pare essere quella. Il governo studia la sanatoria per i migranti, regolarizziamo chi ha un contratto di lavoro. Lo racconta Grazia Longo a pagina 13 della stampa, il via libera a una sanatoria per gli immigrati clandestini che hanno un'occupazione regolare, l'apertura arriva dalla ministra dell'interno Luciana Lamorgese, il governo si è impegnato con un ordine del giorno a valutare un provvedimento che consenta la regolarizzazione degli stranieri con un contratto di lavoro dietro il pagamento di una cifra forfettaria. A cosa si sta pensando? Lo dico poi per chiarire. Tra questi 700.000 extracomunitari irregolari, molti appunto hanno già un lavoro che spesso è un lavoro in nero, pensate solamente alle tante badanti e colf che lavorano nel nostro paese. Dai dati a Sindatcolf emerge che tra il 2020 e il 2025 in Italia avremo bisogno di 60.000 nuovi ingressi di lavoratori extracomunitari nel settore domestico, e in realtà chissà quanti di questi 60.000 all'anno sono già nel nostro paese. Questa sarebbe l'idea del governo. Oh, vi ho detto che non avremmo toccato le questioni politiche, però insomma, fatemene citare solamente un paio. La prima, perché ne abbiamo parlato ieri anche scherzandoci sopra, lo ricorderete, con Paolo Mieli, su quest'ipotesi che circolava e che è stata diffusa ieri dal Corriere della Sera, di un Partito Democratico che si preparerebbe a eleggere alla presidenza del PD la scrittrice Chiara Gamberale. E il Corriere della Sera oggi intervista Chiara Gamberale, e quella che ci sembrava una boutade in realtà ha più concretezza di quanto non immaginassimo. Si dice che il PD non ha fantasia, dice Gamberale, ma se è il mio nome che circola vuol dire che qualcosa sta cambiando. L'apertura del partito alla società civile può sembrare una pazzia, invece è vitalità, proiezione verso il nuovo, dice appunto Chiara Gamberale, 42 anni, scrittrice da quando ne aveva 19, come ricorderete è stata anche voce di Radio 24. E sorpresa? Le chiede Franco Stefanoni. È da un paio di mesi che mi arriva questa voce. Questo vuol dire che evidentemente qualche elemento c'è. Sono molto onorata di essere presa in considerazione, anche se di contatti ufficiali non ne ho avuti. Nessuno mi ha chiesto niente. Certo, mi lusinga. Ci rifletterò se davvero verrò chiamata. Comunque, un po' sorpresa sì. Devo dire che sono reduce da una notte quasi insonne perché mia figlia Vita di 2 anni ha avuto problemi di stomaco e ho bisogno di recuperare per pensare meglio. Vedremo un po' come finirà questa vicenda. E l'altra questione politica sulla quale vi voglio portare è quella della vicenda di Salvini e della citofonata. Il giornale che forse riassume meglio quello che è successo ieri è il Fatto Quotidiano a pagina 8, il quale ci dice tra l'altro che c'era un'inchiesta per droga mentre Salvini citofonava. Scampanellando in quel condominio di Via Grazia dell'Edda al Pilastro, periferia di Bologna, raccontano Sara Buono e Alessandro Mantovani a pagina 8 appunto del Fatto, Matteo Salvini è andato a sovrapporsi a un'indagine giudiziaria per droga in corso proprio da quelle parti. Non è chiaro se la giustizia porta a porta del capo leghista nella campagna per le regionali Emiliano Romagnola, oltre a scatenare un putiferio, richieste di risarcimento e l'apertura di un fascicolo da parte del garante della privacy, abbia perfino intralciato l'attività di polizia giudiziaria. Di certo la voce che a quel citofono rispondesse un presunto spacciatore era arrivata ad una donna che vive il lutto di un figlio malato e poi morto di eroina, la storia la sappiamo, da un maresciallo dei carabinieri, ufficialmente in convalescenza, ma era stato al centro di una recente inchiesta per stalking e depistaggio. Questo il racconto che trovate sul Fatto Quotidiano. Il traffico. Mattino. Buongiorno al nostro direttore del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buongiorno, eccoci. Salute a tutti, eccomi qua, per il puntuale nostro, come ogni giovedì. Esatto, per il nostro appuntamento del giovedì. Allora, caro Fabio, prima di andare alla questione del coronavirus, alla quale il Sole 24 Ore dedica pagina 2, ovviamente con un'attenzione puntata molto sulle questioni economiche, sugli effetti economici, c'è l'apertura del Sole 24 Ore nella quale viene presentata una ricerca dell'Università Federico II, la quale illustra che l'Italia è spaccata in due dalla TAV. Da una parte le città che hanno una stazione di alta velocità, che nei 10 anni del treno veloce hanno accumulato una crescita del PIL fra l'8 e il 10%, e le altre che si sono fermate tra lo 0,4 e il 3%. E quindi, a dire, insomma, la TAV fa crescere il PIL. Intanto fammi fare un applauso alla Federico II di Napoli, punto di eccellenza dell'Università del Mezzogiorno, e questo è importante che ce lo diciamo, perché troppe volte sì, i punti di eccellenza al sud vengono trascurati. Detto ciò, sì, certo, sì, Fabio, tra l'altro è l'università che ha prodotto l'attuale ministro dell'Università e della Ricerca, che era il rettore, prego. Devo dire che lo studio della Federico II dimostra quello che è facile intuire, cioè con infrastrutture adeguate l'economia riparte, l'economia ha risultati positivi. Ci vorrebbe un miracolo, e cioè che per esempio l'alta velocità riuscisse ad andare là dove adesso non c'è. Un punto di scandalo incredibile è che, proprio per ricordare ancora Napoli, tra Napoli e Bari il collegamento è come una piccola odissea, così come una piccola odissea arrivare da Milano a Bari. Allora tutto ciò è inaccettabile. Se vogliamo dare una spinta all'economia del paese, occorre che infrastrutture adeguate ci siano in tutto il paese, se no ci saranno delle aree, dei territori che continueranno nel migliore dei casi a svilupparsi e altri che continueranno ad arrancare. Ci vorrebbe un miracolo, ecco l'invocazione al governo, a questo governo, ma anche ad un altro se ci fosse, è di fare un grande sforzo per rilanciare un piano di infrastrutture in questo paese. Alla fine il problema non sono i soldi ci sono, il problema è l'incapacità strutturale poi di queste opere, di realizzarle. Eh sì, lentezze, burocrazia e non solo. Il coronavirus, oggi troviamo in giro su molti quotidiani pezzi che ci raccontano di come la psicosi si stia un po' estendendo anche in Italia, no? Si registrano cali di penetrazioni nei ristoranti cinesi nell'ordine del 70%, caccia alle mascherine un po' dappertutto, ammesso che servano. Noi ci stiamo giustamente concentrati sul Sole 24 Ore a pagina 2 con Isabella Bufacchi e Stefano Carrer sugli effetti che sta avendo dal punto di vista delle aziende, no? Toyota che ferma le fabbriche, Ikea che chiude i negozi, le attività e i gruppi internazionali si stanno paralizzando e però la borsa dà dei segnali che sono, come dire, misti, no? Non sembra enormemente preoccupata. Il problema c'è, inutile nasconderselo, però in questi casi poi una parte del problema è legato alle suggestioni, ai timori, alle preoccupazioni ataviche. La Cina paga un prezzo, il prezzo di uno sviluppo che riguarda miliardi di persone ed è stato uno sviluppo accelerato che troppo spesso ha trascurato le ragioni dell'ambiente, le ragioni del vivere sano. Questo errore non va fatto, la Cina lo ha capito, l'intervento è stato tempestivo, io sono tra quelli che è portato a non drammatizzare, però non significa non porsi il problema, il problema c'è, è evidente, occorrono interventi tempestivi, sono stati fatti, colpisce il fatto che sono stati costruiti, stanno venendo costruiti, lo abbiamo scritto nei giorni scorsi, due ospedali in un tempo variante tra 10-15 giorni, avete sentito bene, non mi sono sbagliato, ho detto giorni, sono realtà che per l'Italia risultano quasi inimmaginabili, quindi la risposta c'è stata, è stata una risposta forte, io sono fiducioso che questo riuscirà a rimettere sotto controllo anche questa epidemia che certamente non va trattata con leggerezza. Sulle 24 ore oggi abbiamo anche notizia delle analisi della Guardia di Finanza sui percettori del reddito di cittadinanza. Il faro è acceso su 2.700 persone, che non è una cifra enorme, a dire il vero, insomma, e 180 sono quelli un po' più sospetti, secondo i finanzieri. Anche qui non è una scoperta, l'Italia è il paese del lavoro sommerso, io ritengo che ci sia un buon numero di persone che abbiano fatto le pratiche per il reddito di cittadinanza e non dovrebbero prenderlo perché poi alla fine lavorano anche in nero. Questo è inaccettabile, benvengano gli interventi della Guardia di Finanza, ne servono di più, servono controlli a tappeto perché è inaccettabile che ci sia chi il reddito di cittadinanza dovrebbe vederlo col binocolo e che invece lo incassa ogni mese facendo altro, che non è soltanto il lavoro sommerso, ma spesso è anche criminalità economica, soprattutto in certe zone del Mezzogiorno. Questo è inaccettabile, benvengano i controlli della Guardia di Finanza. Abbiamo meno di un minuto, giusto per ricordare un appuntamento che è importante proprio per il nostro gruppo editoriale, ogni anno è Telefisco, si parte alle 9, 175 sedi collegate, 14 relazioni, 750 i quesiti già arrivati al Sole, siamo 29esima edizione, Fabio? Mi piace aggiungere che abbiamo fatto il record delle sedi collegate, lo hai detto, mi fa piacere ripeterlo, 175, mai erano state così tante, la conferma che il gruppo 24 ore per chi si occupa di norme, tributi, è davvero un punto di riferimento e lo rimarrà. L'appuntamento alle 9 con l'intervista al ministro Gualtieri. Grazie al nostro direttore del Sole 24 Ore, dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini, per essere stato con noi. Per chi volesse dunque l'appuntamento alle 9 con Telefisco, ci sarà anche appunto l'intervista a Gualtieri. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella. parleremo appunto di immigrazione. Vedo che già i vostri messaggi stanno arrivando. Metteremo come sempre a confronto due posizioni, perché il tema si riapre: l'approdo delle ocean biking, l'ipotesi di una sanatoria. A tra poco.